Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Che cosa è il lusso? Se la panchina rischia l'estinzione è perché è considerata pericolosa. È considerata pericolosa per la sua casualità e gratuità, che urta contro le norme della circolazione e quelle del controllo sociale. Eppure l'urbanista Mike Davis ricordava come la qualità di un ambiente urbano si misuri prima di tutto con la presenza di posti in cui i passanti possano sedersi comodamente. In La città di quarzo, indagine sul futuro a Los Angeles, Davis racconta come quel principio fosse stato accettato con entusiasmo dai designer dell'area direzionale di Bunker Hill e del nuovo villaggio urbano di South Park, dove i progettisti sognavano un opulento complesso fatto di piazze, di fontane, di public art di livello internazionale, di giardini esotici e di arredamenti d'avanguardia. Per i propagandisti ufficiali dell'operazione non c'è nulla che dia la misura della vivibilità come la visione idilliaca di impiegati e turisti di lusso che fanno uno spuntino o che si riposano nei giardini pensili del California Plaza o del Grand Hope Park. In netto contrasto con tutto questo, a poche isolate di distanza, la città era impegnata in una battaglia senza pietà per rendere le strutture e gli spazi pubblici il più possibile invivibili per i senza tetto e i poveri. Uno dei più comuni e demenziali di questi deterrenti sono le panchine da fermata d'autobus a forma di botte, con la parte convessa come sedile, che offrono una superficie minima per sedersi scomodamente, ma che rendono assolutamente impossibile dormirci sopra. Le frasi di Mike Davis trovano conferma nelle nostre quotidiane esperienze, compresi i pannelli espositivi di progetti di ristrutturazione di piazze pubbliche che mostrano sul disegno quelle panchine e quella vivibilità che si negano generalmente nella realizzazione finale del progetto. Eppure molte associazioni in Francia e in Svizzera esortano a costruire sul modello americano dei pocket garden, giardini tascabili provvisti di panchine anche tra i grattacieli, per attenuare l'isolamento di quanti, anziani o invalidi, non possono altrimenti allontanarsi da casa. L'architetto nomade Francesco Careri mi ha messo a contatto con due suoi colleghi francesi, protagonisti di una bellissima storia. Accade a Bordeaux nel 1996. Il sindaco della città aveva già ordinato il rifacimento per abbellire una piazza importante. Nuovo design urbano, nuova pavimentazione, nuove fontane e così via. Altre sei piazze dovevano proseguire l'opera di abbellimento, ognuna affidata a diversi architetti. Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal dovevano occuparsi di una piazza piccola e defilata, non prestigiosa, Place Léon Occoq. La studiarono e subito risentirono un'atmosfera molto bella e piacevole. Alberi, gente, panchine. Osservandone la vita, si interrogarono sul significato di abbellire. Gli alberi si abbelliscono? Le persone si abbelliscono? E così via. Scoprirono che la piazza era già bella così com'era. Tutto era bello così com'era, compresi i lampioni e le panchine. I due architetti firmarono così il loro progetto. Non era necessario nessun abbellimento per qualcosa che era già bello. Il loro lavoro fu di non far fare niente. Ma era un progetto, non un rifiuto, poiché rientra nella formazione, nella cultura e nell'educazione degli architetti che tutto deve essere cambiato e rifatto. La storia ha un'importanza esemplare. L'idea di fondo è che le cose che esistono hanno valore e bisogna continuare a farne uso. È sufficiente una buona manutenzione. Non fu loro facile comunicare quel progetto. La committenza insisteva nel cambiare almeno le panchine e l'illuminazione. Gli architetti risposero che non aveva senso scegliere nuove panchine su un catalogo. Quelle esistenti andavano benissimo e non erano consumate, né lo erano i lampioni. Anche l'arte contemporanea si fa portatrice della poeticità, della gratuità e dell'umanità delle panchine. D'altronde, l'arte porta da sempre l'attenzione sulle soglie, sulla frontiera tra l'interno e l'esterno dell'abitare, che la panchina incarna così bene. Citavo prima Enzo Cucchi, che nella vita ama sedersi sulle panchine. Del grande Constantin Brancusi esiste, nel parco di Târgu Jiu, in Romania, la mensa del silenzio, con sedili e panchine. George Segal ha riprodotto panchine urbane nelle sue famose sculture di gesso. Penso anche alle sculture abitabili di Kan Yasuda, giapponese di Pietrasanta, le cui nuvole di marmo o bronzo, le sue panche quasi extraterrestri, sono amate dai bambini ogni volta che vengono esposte in pubblico perché sono un invito esplicito a toccarle, a sederci sì, e addirittura a coricarci sì. Lo abbiamo fatto insieme, l'artista e io, in occasione della sua mostra al mercato di Traiano a Roma. Sculture da vivere con il corpo, che invitano all'abbandono. Forse, come suggerisce implicitamente l'artista Alberto Garutti, il bisogno delle opere di uscire dallo spazio dei musei, un movimento simmetricamente opposto a quello inaugurato da Marcel Duchamp e che forse riprende, fuori dalla tela, quel portare per strada oggetti di arredo avviato dai quadri di De Chirico, si incontra spontaneamente con le panchine. C'è la panchina monumentale che Massimo Bertolini ha installato sulla piazza della Fiera di Basilea, sormontata dall'immensa A di Anarchia. E la panchina portatrice dei sussurri e le frasi degli innamorati che Christian Boltanski ha posto in un parco del 13° arrondissement di Parigi. Ci sono le panchine luminose e fosforescenti dello stesso Garutti, ma tutto il suo lavoro è rivolto alle connessioni col là fuori, in dialogo con l'architettura, a una definizione poetica dell'abitare che ci risveglia l'attenzione al mondo esterno. Le panchine mi ispirano un'idea bellissima di ospitalità e di accoglienza, mi ha detto Alberto Garutti. Mi ci siedo spesso, quando sono tranquillo. Anche dormire sulle panchine è bello. Suggerisce una dimensione di libertà. E pensando a giardini, dà l'idea di un addomesticare la natura in senso buono, di un'apertura, un inventare la vita. Le panchine contengono poi l'idea dello stare insieme, per esempio una promessa di conversazione con persone che non conosciamo e non prevediamo. Per questo le nuove panchine monoposto, ad esempio, sono un terribile errore. Del resto non sono mai d'accordo con quello che vedo in giro. Del resto, abbiamo concluso, se una cosa ci piace, possiamo stare sicuri che prima o poi ce la toglieranno. Esposizioni e installazioni di opere site specific vengono promosse un po' dappertutto e le panchine di diversi materiali sono i soggetti e gli oggetti più realizzati dagli artisti. Da Fanano a Velletri, da Pontedera a Verona, dove nel 2006 furono realizzate 7 panchine d'autore per Sguardi d'amore, cui partecipò con una panchina che si affaccia su un fiume anche Garutti. Ma è proprio la museificazione delle panchine a preoccuparmi maggiormente sulla loro estinzione, come se il loro destino e la loro sopravvivenza fossero quelli di oggetti speciali, separati dall'uso, da guardare e basta. Così ogni città e provincia ha le sue panchine speciali, compresa quella di legno, dove a Torino, oltre un secolo fa, fu fondata la Juventus. In corso Re Umberto, a Bagnocavallo, nell'Orto dei Semplici, per il centenario di Leo Longanesi, che lì era nato, 2 anni fa hanno realizzato il Giardino degli Aforismi, 10 panchine Liberty in ferro battuto disegnate appositamente con sopra incisi in targhe in ottone degli aforismi d'epoca di Longanesi. Anche a Merano, lungo la passeggiata sul Passirio, ci sono panchine che portano incise sul legno citazioni di poeti, scrittori, filosofi, Shakespeare, Ezra Pound, Nietzsche e altri ancora. Succede così di fermarsi, di leggere e, se ci si riesce, di tradurre. Ma ci si dimentica di sedersi, a dimostrare che le panchine possono essere fatte anche per i ricchi, ma spesso nella forma di simulacri di esperienza. A Sils Maria, in Engadina, gli epigoni dello Zarathustra di Nietzsche possono prenotarsi una panchina panoramica e fare incidere sul legno le parole più gradite, al prezzo, alcuni anni fa, di 2.500 franchi svizzeri, un'iniziativa nata dall'ufficio del turismo che sta devastando il paesaggio con una proliferazione, questa sì, in controtendenza, di panchine. Nel gennaio di quest'anno sono tornato, dopo molti anni, a Gstaad, lussuoso centro di vacanze invernali nell'Oberland bernese. È una cortina più internazionale. James Bond vi ha passato alcune avventure, ma negli ultimi anni anche la coppia Boldi-De Sica vi ha trascorso una loro saga natalizia. Ero lì per qualche giorno di vacanza con mio figlio, entrambi ospiti. Lui è un appassionato sciatore, io mi sono riposato da mesi e mesi di città. Il panorama delle cime di 3.000 metri è incantevole. Ed inverno, gli alberi cristallizzati, sculture bianche su fondo bianco, anche per chi non scia, valgono la fatica di una seggiovia e di una camminata nella neve. Tutto intorno vi sono strati di chalet di legno scuro e la notte i triangoli di luci, cioè le linee luminose che ne delimitano i tetti, sembrano un'immensa installazione d'arte. A pochi chilometri c'è lo chalet in cui viveva il pittore Balthus. Non è male, nonostante i negozi di moda, le griff, le automobili esageratamente lussuose, la ricchezza che trasuda dalla gente. Ci sono panchine di legno, disposte un po' dappertutto, ma è come se fossero panchine di un club privato. Tu paghi l'accesso, poi se vuoi ti siedi anche per terra. Mio figlio, che come tutti gli adolescenti è in balia dei modelli di vita che si trova intorno, lusso compreso, trova Gstaad magica. E non si pone nessuno dei miei problemi. Cerco di imparare da lui a vincere i miei pregiudizi, ma non è facile. Eppure lui sa che su una panchina al sole con vista sui monti si sta altrettanto bene che sulla terrazza del suo magico Palace Hotel, sorta di castello torrito color crema che domina il colle chiamato Overboard. Che cosa è il lusso? Ho parlato a mio figlio di Ravello. Scoprì Ravello, paesino arrampicato sopra la costiera di Amalfi, e la sua incredibile abitabile bellezza verso la fine degli anni Ottanta. Ero fresco di laurea e non avevo una lira, ma dal lusso naturale del luogo non mi sono mai sentito respinto né tantomeno estraneo. Per chi non la conoscesse, Ravello è una sintesi di classicità greco-romana e stile arabo-normanno, dove Wagner trasse ispirazione per il Parsifal, poiché nell'esotico giardino di Villa Rufolo vide tradotto il giardino incantato di Klingsor. Ravello è luogo di visitatori e abitatori incantati, da Ibsen ad Adorno a Gorby Dahl. Vi restai per un periodo a scrivere un racconto, alternato alla lettura della Divina Commedia, note comprese, in vista di un concorso per diventare insegnante di lettere alle superiori. Non sapendo come prepararmi, leggevo e rileggevo Dante. Interrompevo le attività sedentarie con passeggiate lungo i sentieri costeggiati da muretti a secco che delimitano orti e distese terrazzate di limoni, vigne e ulivi. All'orizzonte, da qualsiasi parte, il blu del mare, panchine e muretti. La sua avidità fuori stagione mi faceva oscillare senza soluzione di continuità tra sensazioni ispirate a Virgilio, al Cantico delle Creature di San Francesco e alle novelle del Decameron, senza che sapessi che a Ravello erano pervenuti, nella lunga schiera di vagabondi di ogni epoca, sia Boccaccio che il Santo di Assisi e Pierpaolo Pasolini, che vi girò il suo Decameron, per molte ragioni, compresa naturalmente l'influenza di Villa Cimbrone e la sua Terrazza dell'Infinito. Il racconto che scrissi fu pubblicato all'inizio col titolo L'Infinito di Dante. È la storia, realistica e paradossale, di un fotografo cieco. Quanto a un possibile paradiso di leopardi, il personaggio del racconto aveva pure qualcosa da dire. Ravello, spiego a mio figlio, è agli antipodi della Costa Smeralda, così come i suoi bar e ristoranti sono all'opposto del billionaire di Briatore, almeno quanto un film di Peter Greenaway lo è da un film con Massimo Boldi. Lusso è qui la fruizione di cose rare come il silenzio, il tempo, lo spazio, la bellezza. Ozium. Va da sé che quel lusso lo provai seduto sui muretti e le panchine tanto quanto al tavolo della sala da pranzo dell'Hotel Palumbo con lo scomparso signor Villumier, il proprietario. Intanto mio figlio scia là, in alto, sulle cime. Il cielo è azzurro, io sono sulla neve e al sole. Non faccio nulla. L'ho detto al telefono a Stefania, restando seduto sulla panchina. Mi ha risposto: le tue parole sono quasi un haiku. Qualcosa hai fatto. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.